E siamo rientrati in diretta, sempre Radio Città del Capo e sempre 451 frammenti sonori. Dopo il GR di Radio Popolare Network abbiamo ripreso la nostra trasmissione, lo ricordiamo anche per coloro che si fossero messi casualmente o volontariamente in ascolto di queste frequenze e di questa trasmissione. Per sbaglio, insomma, oppure sentivate un rumore un po' strano, vi siete incuriositi, vi siete fermati, siamo noi, 451 frammenti sonori. Se volete avere altre informazioni o scaricare le puntate di 451, ricordiamo sempre che sono presenti e possono essere scaricate, nonché ascoltate, nonché potrete avere anche le informazioni relative ai brani e ai progetti musicali mandati in onda sul nostro no blog, che è sempre 451frammentisonori.noblogs.org. E adesso abbiamo ripreso il nostro percorso sonoro di questa trasmissione che abbiamo voluto intitolare Minimalism Now, e abbiamo aperto nella prima parte con l'ultimo lavoro, splendido ultimo lavoro doppio CD di Terry Riley, per passare poi a uno degli allievi di Glass, ma anche strettamente connesso ai lavori di Terry Riley, Nico Muli, e abbiamo chiuso con un altro colosso del minimalismo storico, Steve Reich, e abbiamo riaperto invece con il brano che avete orora ascoltato sulle nostre frequenze malate, Raglani and Outer Spaces. È un progetto, quello di Raglani, che abbiamo già affrontato e abbiamo già messo in onda per alcuni dischi, un paio di dischi che hanno attraversato 451, un artista americano piuttosto recente, ha fatto uscire i suoi primi lavori alla metà degli anni zero e poi ha portato avanti fino ai nostri giorni, a questi ultimi giorni, altri dischi, appunto in particolare quest'ultimo che è uscito nel 2010 con un altro progetto, Outer Space. Raglani riesce, diciamo, a coniugare le sue manifestazioni un po' pazzoidi che si sono sviluppate soprattutto nei dischi precedenti, in particolare Of Sirens Born, uscito per la Cranky, dunque etichetta sicuramente importante sulla scena della musica sperimentale nel 2008, che abbiamo già passato in 451. Ma mentre Raglani, che ha avuto anche il piacere di vedere dal vivo in una vecchia edizione, poi neanche vecchissima, proprio di 3 anni fa, proprio di Angelica, Raglani lavora appunto con strumentazioni elettroniche, spinge molto verso dimensioni rumoriste e oltretutto utilizza anche strumentazioni lo-fi di vecchia generazione, recuperando tastiere, mixer e altri aggeggi elettronici del passato, roba di anni 70 o inizio anni 80, manipolandole, costruendo praticamente delle reti di collegamento tecnologiche digitali assurde su strumentazione analogica, creando dei suoni abbastanza affascinanti. Ma in questo disco emerge una natura minimalista, assieme soprattutto al progetto Outer Space, che lavora soprattutto sul recupero della space music del passato, un certo kraut che viene riproposto e combinato con la follia di Raglani ha realizzato questo EP, che è un piccolo gioiello che, oltre a questo brano che avete appena ascoltato, fortemente legato all'idea strutturale del minimalismo, ci sono altri brani come addirittura delle evocazioni folk psichedeliche piuttosto suggestive che attraversano l'intero album. Dunque un disco assolutamente da ascoltare, uscito un anno e mezzo circa fa per l'etichetta Nihilist. E da Raglani a Outer Space apriamo ancora le porte al minimalismo, un minimalismo sviluppato attraverso un altro autore che, come Raglani, si avvicina e si intreccia all'idea minimalista, partendo anche da altre timbriche sonore anche molto differenti. Sì, infatti la vicinanza sta sicuramente nel rileggere, come molti autori attuali dell'elettronica, rileggere quelle che sono le grandi avanguardie, tra cui anche il minimalismo. Se con Raglani ci avviciniamo appunto a un uno spunto più che altro space, appunto, come diceva, spaziale, krauto, e quindi quell'idea anche di minimalismo, magari per i tedeschi più verso Terry Riley, per un'improvvisazione Infatti. Che è sempre stata più vicino al jazz o al rock del grande minimalista, rispetto invece a Reich, che è più influenzato, diciamo, certe forme anche prototecno, forse, no? Proprio per la struttura dei pezzi, insomma, la struttura, insomma, dell'intero lavoro, il lavoro proprio strutturale. Invece con Antonio Patela. Sarà di origine italiana, chissà, il nome l'avrà trasformato, forse è Patera. Chissà. Allora, Anthony Pateras, con questa S, quindi, che ci porta invece da un'altra parte. Tra l'altro poi scopriremo anche dov'è. Anthony Pateras, in questo caso insieme a Robin Fox, lavoro fatto a due mani, a due teste, e si va verso quel terreno, l'avevamo un po' detto anche all'inizio della trasmissione, che avremmo preso il minimalismo, ma quello che poi è successo dopo, soprattutto al minimalismo storico dei grandi quattro, cioè l'intreccio con la drum music, con la musica cosmica, con la musica contemporanea più orchestrale, e con Anthony Pateras e Robin Fox infatti si va più sulla drum music, quindi quella forma minimalista, se vogliamo chiamarla così, legata a grandi personaggi come, vabbè, non voglio anticipare il personaggio di dopo, ma Phil Niblock sicuramente, autore americano che insieme ad altri ha creato appunto la drum music, questa musica creata su questo bordone infinito, ma lo stesso Lamonte Young ha creato buona parte di tutta l'attitudine e la composizione drone. Pateras quindi nel suo viatico splendido drone insieme a Robin Fox per questo Flux Compendium, in effetti di flusso si tratta, e di compendio anche per questo compendio di varie attitudini che si vengono a dialettizzare. E siamo rientrati in diretta dopo aver ascoltato anche Anthony Pateras, Flux Compendium, uscito nel 2008, un ottimo lavoro che si dipana attraverso, anche se la registrazione mi fa notare Max del 2006, ma in realtà l'uscita del disco è successiva. Allora, andiamo a vedere che praticamente il lavoro di Flux Compendium rappresenta in parte un percorso sonoro di Pateras che attraversa aspetti anche rumoristi piuttosto radicali, con momenti veramente dove il flusso sonoro diventa talmente saturo a livello di frequenze da stordire l'ascolto in alcuni momenti, a dimensioni invece più droniche, come in questo caso un drone che poi si trasforma in una sorta di comunicazione elettronica, quasi un linguaggio digitale, attraverso dei bit che si intervallano e creano quasi una sorta di comunicazione antica, quasi a ricordare il famoso strumento inventato anche dal buon Marconi qua sopra, no? Anche il Teremin, cosa è inventato poi? Marconi, ma in realtà il è di Tesla poi. Sì, infatti, il giochino, Marconi è stato più furbo, ma era di Tesla. La telegrafia. Per cui ricorda un po' questi messaggi in codice che venivano mandati nel passato, riproposti sul piano elettronico, ma appunto l'aspetto minimalista che poi si denota in questo brano si ritrova in un'altra traccia, ma complessivamente un disco piuttosto variegato a livello di atmosfere, di sonorità, oltre che di strutture armoniche e melodiche, anche se il termine melodica è un po' forzato per il lavoro di Anthony Pateras, che oltretutto è un personaggio che varia molto anche l'elaborazione dei propri album, passando anche in dinamiche sonore che alle volte sono di pura improvvisazione, seppur sempre connesse all'aspetto rumorista e con una forte attenzione e una rilevanza all'aspetto prettamente sonico. Da Pateras ritroviamo un'altra grande del minimalismo, e non solo, di molta elettronica, di molta contemporanea, che ha attraversato gli anni 60-70 per arrivare poi ai giorni nostri, e adesso l'andiamo a presentare. Sì, Eliana Radigue, ma già insomma due o tre parole dette, come dire, fanno una sintesi su una delle grandi protagoniste del Novecento sperimentale, elettronico, e l'abbiamo voluto anche unire a Pateras, poi a un altro anche più o meno giovane autore, perché la Radigue, a parte che viene appunto dal minimalismo, ma inteso appunto in chiave drone, e quindi più vicino appunto all'idea di Niblock e di, quindi, oppure di un certo Monte Young, ma soprattutto la Radigue prende le mosse, come Pateras, poi anche in alcuni spunti proprio della musica concrete, quindi dal rumore concreto utilizzato poi in chiave appunto compositiva dei grandi Pierre Schaeffer e Pierre Ri, proprio ha studiato elettroacustica, quindi anche in questo senso c'è uno spettro molto ampio che anche in Pateras, come nel personaggio che dopo andremo a ascoltare magari unendolo appunto alla Radigue, c'è un mondo musicale molto complesso, legato appunto alla sperimentazione tout court del Novecento, che va quindi dalla musica concreta all'elettroacustica in generale, alla prima strumentazione elettronica e poi appunto alla digitalizzazione anche di questa. La Radigue si avvicina molto a quello che è il flusso sonoro, alla drone music, attraverso il buddismo tibetano e attraverso le frequentazioni chiaramente di quelle che erano le avanguardie, ad esempio legate a Michel Sion, legato anch'egli alla musica elettroacustica, e anche appunto a questo riferimento notevole dentro le sue musiche, seppur originalissime, seppur strettamente individuali, appunto all'altro grande compositore che abbiamo più di una volta citato, appunto Niblock. Ci andiamo a trovare un lavoro della Radigue molto importante, uscito nel 1973, anche se poi sfortunatamente insomma non ebbe mai modo di essere stampato in maniera insomma degna di un capolavoro, come è appunto questo disco uscito per l'Important Record, quindi anche qua torniamo a un discorso rumorista, Important legato al rumorismo anche molto cattivo americano, se pensiamo a Merzbo giapponese, sì, appunto, sempre giapponesi, però in realtà Affair Trio, cosa che nasce in America e che appunto prevede anche personaggi, sì, Daniel Mann, che appunto Wolf Eyes, Otto Gisu Se l'ho detto bene, perché sì, l'hai detto bene, abbastanza bravo. Delirante come nome, e quindi c'è questo passaggio, insomma, ci interessa anche questi vasi comunicanti tra sperimentazione qua a base appunto minimalista, come la stiamo intendendo, capolavoro recuperato appunto dal 73, uscito finalmente nel 2011 in maniera importante dall'Important Record. Bella questa te la sei preparata, è come bravo. La casa, guarda, Transmorem, Transmortem, ce l'andiamo ad ascoltare, l'uniremo appunto al giovinotto. Assolutamente. Che non è più giovinotto. Non lo presentiamo, lo diciamo dopo. Tanto il pezzo è dedicato proprio alla Radiga. Vedi. Transmorem, Transmortem. Bene, quindi abbiamo fatto questo passaggio tutto dedicato alla Rodriguez. Nella prima parte c'era l'ultimo di Terry Riley, qua in questo caso la Rodriguez, più che altro recuperiamo un storico lavoro del 1973, Transmorem Transmortem, e Whitman, Kate Fullerton Whitman, anzi, che con Generators, disco uscito proprio in queste ultime settimane, dedica proprio questo pezzo, questa lunga digressione minimalista, proprio a Liane Radig, sicuramente uno degli autori più influenzati dal minimalismo storico, Kate Fullerton Whitman, sia da questi riferimenti alle prime musiche elettroniche, quindi agli oscillatori, a quella epopea anche piuttosto importante e mitizzata, giustamente mitizzata, dei grandi pionieri delle musiche elettroniche, e sicuramente appunto include anche la Radigo, è una storica che ha lavorato con l'ARP, che ha fatto delle elettroniche musiche estremamente suggestive, la drone music sua passa attraverso Whitman, che poi appunto riprende anche dai maestri della stessa Radigo, e prima citavamo appunto Pierre Ri e Schaffer, mondo insomma che parte addirittura dal rumorismo. I primi esperimenti di Whitman come Svaski erano proprio di terrorismo digitale, per arrivare appunto a queste forme insomma di anche, come dire, deferenti rispetto alla vecchia insomma avanguardia. So che è un po' stridente dire vecchia avanguardia, comunque a quello che fu insomma un percorso che adesso è ripreso da molti. Tra l'altro sia Whitman che Anthony Pateras vengono stampati dall'Amigo. Ultimamente, questione di 2 o 3 anni, non sta sbagliando un colpo, sembrava un po' persa dentro il post glitch, come molte etichette in crisi. In realtà proprio una grande scoperta, buona per gli austriaci sperimentali dell'Amigo. Bene, e da Whitman andiamo a trovare una formazione altrettanto importante sul piano degli ultimi anni, dagli anni 90, formazione nata nel 1998, costituita da Julia Bradley, Neil Campbell, Bridget Hayden, Adam Davenport e Michael Flower. Vibra Cathedral Orchestra, formazione appunto cresciuta negli anni 90, alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 0, caratterizzata da un drone noise abbastanza marcato, ma anche attraversata da vari stili e varie atmosfere, condizionata anche in una certa misura anche dal space rock, ma anche da dimensioni minimaliste. Non a caso i fondatori di questo gruppo, in particolare il personaggio cardine che è Neil Campbell, ha avuto riferimenti piuttosto chiari rispetto alle sue composizioni, le sue atmosfere, le sue musiche, ai grandi insomma del minimalismo, da Terry Riley alla Monte Young, allo stesso anche Tony Conrad, importantissimo sulla scena minimalista. E non a caso in vari album l'aspetto minimalista emerge, ma con questa intelligenza di renderlo attuale all'interno di un muro sonoro, di un aspetto noise ma anche dronico, che li rende assolutamente una delle formazioni più interessanti. Non a caso i Vibra Cathedral Orchestra li abbiamo inseriti in più di una volta all'interno di vari percorsi sonori anche differenti, anche perché sono una formazione molto suggestiva a livello sonoro, dunque richiama atmosfere e mondi che noi cerchiamo di esplorare attraverso un tema nelle nostre trasmissioni. Spesso Vibra Cathedral riescono a rientrare molto bene rispetto ai percorsi che ci vogliamo sviluppare all'interno della trasmissione. Il disco che andiamo a pescare per questa serata dedicata al minimalismo oggi, oggi bravo, Snow è l'ultimo praticamente, anzi non l'ultimo, ma un disco considerato molto più minimalista degli ultimi anni dei Vibra Cathedral, 2007, ed è Wisdom Thunderbolt. E abbiamo selezionato la quinta traccia, che non a caso è riferita anche a un disco di Terry Riley, Rainbow Whirlwind. Insomma, vedo molto a distanza, ma non sempre, perché il computer, così lo capite anche voi, facciamo il gioco, è un po' distante dalla mia postazione. Dice che si riferisce a Rainbow, secondo me un po' sì, perché loro comunque Riley, può essere, sì, in effetti ci sono molti riferimenti proprio al storico disco di Riley, Rainbow in the Curved Air. Esatto. Splendido lavoro. Ce l'andiamo dunque a sentire, botta dei Vibra Cathedral, perché l'aspetto comunque noise, il suono potente, è sempre presente anche in una dinamica minimalista. Potremmo anche riferirci anche a tutta la corrente legata al massimalismo che, sì, abbiamo, a me, come no, che abbiamo affrontato in vecchie puntate, in particolare dal grande chitarrista Chatham, ma tanti altri. Tanto, che è uscito Adams, anche l'ultimo, quindi infatti dovremmo, ma prima o poi branca, ve lo manderemo. Intanto ce lo godiamo questo splendido lavoro, Wisdom Thunderbolt, Vibra Cathedral Orchestra. Thank you. Thank you. E siamo rientrati in diretta dopo aver mixato, ma doverosamente direi, date le atmosfere piuttosto similari in termini di minimalismo. In realtà il suono è molto differente, quello dei Vibra Cathedral Orchestra e quest'ultimo lavoro, ma appunto accomunati dall'aspetto minimalista, seppur differente. Vibra Cathedral hanno sicuramente sviluppato quel minimalismo molto serrato, molto ritmato anche nella propria costruzione ciclica e in parte solamente ripetitiva in alcuni elementi, mentre Alan Fulham lavora più sull'aspetto del suono e del drone sonoro, dunque richiama molto di più, ad esempio, tra i grandi della musica minimalista personaggi come John Gibson o anche il personaggio che prima mi citavi, no? Sembrava tipo se la domanda sì, a scuola che tu stai cos'è, infatti appunto sei stato molto bravo. Grazie, ti rendo conto che c'è un caldo qua dentro che è allucinante. Non oso pensare cosa sarà quest'estate, ma almeno vediamo in alto che sembra che ci sia dentro uno studio che, così ve lo raccontiamo, è praticamente c'è l'aria un metro per due condizionata, che faremo diventare incondizionatamente fredda. Sembra un blocco d'aria condizionato, una struttura anche abbastanza grande, questo fa molto pensare. E gli studi sono splendidi, qualcuno l'avrà detto sicuramente, gli studi sia di regia che di la sala ospiti, ma anche gli studi di registrazione, sicuramente rispetto alla vecchia radio di via Berretta Rossa. È una radio sicuramente tecnicamente, strutturalmente più bella, ma indiscutibilmente c'è un caldo più pazzesco, caldo. Molto più calda, e anche quella di via Berretta Rossa non scherzava, ma qua veramente deve essere una cosa angosciante rimanere senza aria condizionata. Veniteci, insomma. Potremmo farla nudi la trasmissione. Sì, con dei secchi d'acqua. Del ghiaccio, ci tiriamo del ghiaccio. Un gelato, un calippo. Un calippo. Bene, abbiamo mixato. Fanno ancora i calippo? Sì, no? Come no? Li fanno. Tu credi che siano scomparse alcune cose anni 70-80? Infatti le vedo ogni tanto che ho in mano. Ci sono i tic tac, ci sono i calippi, ci sono ancora i ghiaccioli, ci sono ancora. Perché infatti ogni tanto c'è anche il biscotto, te li ricordi? Il biscotto al gelato, quello proprio anni 80, però ci sono. Li compri tutti tu? Li compro tutti. No, insomma, i gelati no, però le caramelle anni 70 le trovo solo io. Va bene. Comunque abbiamo mixato Vibra Cathedral Orchestra, questo splendido lavoro che abbiamo già presentato, con Alan Fulham, musicista americana che si è mossa all'interno anche della Sound Sculpture e anche del Performing Art, del Video Art, oltre che chiaramente a dimensioni sonore minimaliste e di flusso, che rappresentano sicuramente degli aspetti molto interessanti, soprattutto per l'utilizzazione di strumenti elettronici, ma anche molte strumentazioni di tipo acustico, in particolare strumenti a corde come l'arpa, che spesso utilizza la Fulham e la trasforma praticamente attraverso delle manipolazioni con degli strumenti effettivamente nuovi, utilizzando delle corde della stessa arpa e producendo degli strumenti completamente modificati. Fulham, che abbiamo ascoltato insieme a Simian in un disco uscito nel 2007 intitolato Untitled, dunque senza titolo. Il lavoro della Fulham si sono sviluppati già dagli anni 80, ma in realtà la maturità musicale si è sviluppata soprattutto nella fine degli anni 90. Negli anni 0 ha portato avanti una grossa produzione, oltretutto etichette che abbiamo già incontrato nel corso della trasmissione, come l'Important Records, ma anche etichette come la Deep Listening, della grande maestra anche lei del minimalismo, come la Pauline Oliveros, anche l'Experimental Intermedial Foundation. Insomma, ha lavorato con etichette importanti della musica da avanguardia, musica sperimentale, e sicuramente l'aspetto minimalista legato soprattutto a Gibson e non mi ricordo mai, non so Niblock. Perché Niblock, c'è un buco memonico. Niblock, che l'ho ascoltato 80.000 volte, però non mi viene sul l'abbiamo nome. Anche messo tanto. L'abbiamo anche messo tanto. Bene, abbiamo chiuso così Sì, no? Beh, chiudiamo così, vi regaliamo quindi un altro po' di 452 di polvere di stelle. Poi non ci viene da ridere perché insomma, stiamo ancora navigando a vista con tutta la strumentazione qua in radio. Succedono delle cose in regia inenarrabili, però siamo sì, bravi. Sì, ma se noi giriamo poi, siamo un po' come dei gatti. Dei gatti. Facciamo un po' di... Usciamo e rimaniamo fuori perché abbiamo chiuso la porta, prima o poi succederà perché... Vabbè, insomma... Sì, non ti dico, facciamo gli scongiuri perché non avevo, perché sennò poi veramente tipo mandiamo tutte le opere della Monte Young per la notte, così non c'è neanche bisogno che interveniamo. Infatti. Dai, comunque, vabbè, questa è una trasmissione che merita un flusso, comunque un percorso anche di mix molto lunghi, va bene così, insomma. La prossima certo. Sarà tutta serratissima. Sì, ogni tre minuti. Di Napal Death, di John Zorn, di Residence, tutti da 30 secondi. Vedi. Però siamo nel centro di Bologna, insomma, due passi arriviamo a Napal Death. A Napal Death. Con questo vi salutiamo. Cioè abbiamo anche la finanza di fronte, è tutto un, è tutto un perché. Anche quelli anche sono quelli altri sono Napal Death. Sono dei Carcass, per chi si ricorda il Grime. I Carcass, mamma. Va bene, va. Buonanotte, fatti bravi. Quello fondamentale. Continuate così, sta succedendo, ci stanno togliendo tutto, ma tutto, poco, continuiamo a stare a casa. Tra poco ci tolgono anche tutto. Anche il tutto, tutto. Poi quando rimaniamo senza niente ci tolgono anche quello. Anche il niente. La metafisica del taglio, tra poco. Il taglio esistenziale, ma gireremo tra poco, taglieranno pezzi proprio degli pezzi umani, usciremo senza una gamba. Arriva lì, guarda, hai bisogno, se devi coprire il muto, un braccio, un organo. Vendi l'occhio, come un bel film di Alberto Soldi si vendeva Monti, l'occhio. Monti, Super Monti. Monti e tutti i suoi accoliti che stanno facendo un lavoro. Salutiamo anche il PP. Salutiamo il Partito dei Padroni, che ormai sarà candidato alle prossime elezioni, tutti tecnici, tutti bravi, tutti bravi, precisi, tutti neutri, tutti neutri, non sono di destra né di sinistra, soprattutto neutralizzanti, il Partito dei Padroni direttamente proprio. Claro, sarà l'avanguardia di tutto l'Occidente. Mettiamo le X anche sui Partiti dei Padroni, Le crocette, giochiamo le crocette. Poi c'è anche il premio, secondo me inventeranno le prossime elezioni se tu fai la crocetta, poi fai la scheda, se poi vengono estratte e vinci dei premi in soldi per coinvolgere la gente ad andare a votare. Visto le elezioni, viene gente, ti danno un gratta e vinci. No, ma direttamente te lo fanno proprio grattare lì dietro l'urnia. Se ce n'era. Buonanotte cari. Buonanotte. Ciao.